Il coro. Liliata rutilantium te confessorum, jubilantium te virginum. Dall'alto d'una torre, Buck Mulligan, in abito versicolore da buffone, color pulce misto a giallo e berretto a sonagli, si ferma a bocca aperta davanti a lei, con in mano uno scone fumante, imburrato, diviso in due. Buck Mulligan. È morta bestialmente. Che pena. Mulligan incontra la madre dolorosa. Alza gli occhi al cielo. Mercuriale Malachi. La madre, col sorriso sottile della follia di morte. Era un tempo la bella May Goulding. Ora sono morta. Steven, annichilito dall'orrore. Chi sei? O lemure? Che diavoleria di stregone è mai questa? Buck Mulligan scuote il sonaglio. Che canzonatura! Chince corpo d'un cane ha ammazzato il corpo d'una cagna. Ha tirato liquoia. Lacrime di burro fuso gli cadono dagli occhi dentro lo scone. La nostra grande dolce madre. Epio enopa ponton. La madre viene più vicino, alitando lieve su di lui il suo alito di cenere umida. Tutti ci devono passare, Steven. Più donne che uomini al mondo. Anche tu. Tempo verrà. Steven, soffocato dal timore, dal rimorso e dall'orrore. Si dice che t'abbia ammazzato io, mamma. Egli ha offeso la tua memoria. È stato il cancro, non sono stato io. Il fato. La madre, un verde rivolo di bile le scorre giù da un angolo della bocca. Mi cantasti quella canzone, l'amaro mistero dell'amore. Steven, ansiosamente. Dimmi la parola, mamma, se ora la sai, la parola nota a tutti gli uomini. La madre. Chi ti ha salvato quella sera che montavi in trino ad Alchi con Paddy Lee? Chi ha avuto pietà di te quando eri triste in terra straniera? La preghiera è onnipotente. La preghiera per le anime in pena nel manuale delle Orsoline e 40 giorni di indulgenza. Pentiti, Steven! Steven, necrofago, iena! La madre. Prego per te nel mio altro mondo. Fatti preparare da Dilli quel riso cotto ogni sera dopo che hai lavorato di testa. Per anni e anni ti ho amato, figlio mio primogenito, quando eri nel mio grembo. Zoe, sventolandosi con il parafuoco del caminetto. Mi sto sciogliendo. Flory, indica Steven. Guarda, è sbiancato. Bloom va alla finestra per aprirla un po' di più. Gira la testa. La madre, con occhi ardenti. Pentiti! Oh, il fuoco dell'inferno! Steven, ansimando. Il suo sublimato non corrosivo, mastica cadaveri, testa cruda e ossa sanguinanti. La madre, con la faccia che si avvicina sempre di più, emanando un alito cinereo. Attento! Alza lentamente il braccio destro annerito, avvizzito, verso il petto di Steven, con le dita tese. Attento! La mano di Dio! Un granchio verde dai maligni occhi rossi affonda le chele ghignanti nel cuore di Steven. Steven, strozzato dalla rabbia, i suoi lineamenti si fanno tirati, grigi e vecchi. Merda! Bloom alla finestra. Cosa? Steven. Oh, non par exemple! La fantasia intellettuale, con me tutto niente affatto. Non serviam. Flory. Dargli un po' d'acqua fredda. Un momento. Si precipita fuori. La madre si torce le mani piano, lamentandosi disperatamente. Oh, Sacro Cuore di Gesù, abbi misericordia di lui, salvalo dall'inferno, oh Sacro Cuore divino. Steven. No, no, no, fiaccatemi lo spirito tutti quanti siete, se vi riesce, vi metterò tutti in riga. La madre, nella stretta dei rantoli della morte. Signore, abbi misericordia di Steven, per amor mio, Indicibile era il mio tormento mentre spiravo d'amore, dolore e angoscia sul Calvario. Steven, Notung! Leva in alto il bastone con ambo le mani e spacca il lampadario. La livida vampata finale sprizza e, nell'oscurità che segue, ruinare di tutto lo spazio, vetro infranto e muratura crollante. La fiammella del gas. Puff! Bloom. Fermo! Lynch si precipita avanti e afferra la mano di Steven. Ohé, fermati! Non fare il matto! Bella. Polizia! Steven, abbandonato il bastone, con la testa e le braccia irrigidite all'indietro, batte i piedi e fugge dalla stanza oltrepassando le puttane sulla soglia. Bella urla: Corretegli dietro! Le due puttane corrono alla porta d'ingresso. Lynch e Kitty e Zoe si precipitano trepestando fuori dalla stanza. Parlano eccitate. Bloom le segue, poi torna indietro. Le puttane. Stipate sulla soglia della porta indicano laggiù! Zoe indicando là succede qualcosa! Bella, chi lo paga il lume? Afferra un lembo della giacca di Bloom. Un momento, lei era insieme a quello là! Il lume è rotto! Bloom va di corsa verso il vestibolo, poi ritorna. Quale lume, femmina? Una puttana. Gli ha strappato la giacca! Bella, occhi induriti dall'ira e dalla cupidigia, facendo col dito. Chi lo paga quello? 10 scellini, lei è testimone. Bloom afferra il bastone di Steven. Io? 10 scellini? Non l'ha pelato abbastanza. Non ha forse. Bella, ad alta voce. Insomma, c'è poco da rizzare la cresta. Non è mica un casino questo. È una casa da 10 scellini. Bloom, testa sotto la lampada, tira la catena. Al che la fiammella gas illumina un paralume lilla, violaceo e ammaccato. Alza il bastone. Solo il tubo è rotto. È tutto qui quel che. Bella. Si tira indietro e urla. Gesù, no! Bloom, parando un colpo. Solo per farle vedere come ha colpito la carta. È un danno di neanche 6 pence. Altro che 10 scellini. Florrie entra con un bicchiere d'acqua. Dov'è? Bella. Vuole che chiami la polizia? Bloom. Sì, lo so. Bulldog in casa. Ma si tratta di uno studente di Trinity, clienti preziosi per la casa, signori che pagano l'affitto. Fa un segno massonico. Capisce quel che voglio dire? Nipote del vice cancelliere, non vorrà mica fare uno scandalo. Bella, irosamente. Trinity! Vengono qui a far cagnara dopo le regate e non pagano nulla. Comandate voi qui dentro. Oppure, dov'è lui? Lo denuncerò. Lo rovinerò, quant'è vero il Dio. Grida, Zoe! Zoe! Bloom, con urgenza. E se fosse suo figlio ad Oxford? Con aria ammonitrice. So tutto. Bella, quasi senza parola. Ma lei è qualcuno. Incognito! Zoe, sulla soglia. C'è Buriana laggiù! Bloom, cosa? Dove? Butta uno scellino sulla tavola e grida. Questo è per il tubo! Dove? Ho bisogno di un po' d'aria di montagna. Attraversa di corsa l'ingresso. Le puttane indicano col dito. Florrie gli è dietro, versando l'acqua dal bicchiere tenuto obliquo. Dalla porta d'ingresso tutte le puttane riunite in gruppo parlano volubilmente, accennando verso destra dove la nebbia si è diradata. Da sinistra arriva una carrozzella sferragliante. Rallenta e si ferma di fronte alla casa. Bloom, dalla soglia, scorge Corny Keller in procinto di scendere dalla carrozza con due libertini silenziosi. Volta la testa. Bella, dall'interno, incita le sue puttane. Esse si lanciano tra loro baciuzzi, molli dolci leccuzzi, yam yam. Corny Keller risponde con un orrendo sorriso lascivo. I libertini, silenziosi, si voltano per pagare il vetturino. Zoe e Kitty accennano ancora verso destra. Bloom, passando rapidamente in mezzo a loro, si tira sugli occhi il cappuccio da califfo e il poncio e corre giù per gli scalini con la testa voltata da una parte. Harun al-Rashid, in incognito, passa dietro i libertini silenziosi e si affretta lungo la cancellata con il passo veloce del pardo che lascia peste dietro di sé, buste strappate, inzuppate nell'anice. Il bastone misura ogni suo lungo passo. Una muta di veltri, guidata da Hornblower di Trinity che brandisce la frusta, dà berretto da battitore e un vecchio paio di pantaloni grigi, segue di lontano, trovando la pista più vicino. Abbaia, ansima, su falsa traccia, dispersa con la lingua fuori, gli mordono le calcagna, gli saltano alla coda. Egli cammina, corre, zigzaga, galoppa, orecchie schiacciate all'indietro. È subissato di ghiaia, torsoli di cavolo, scatole di biscotti, uova, patate, ghiozzi morti, ciabatte da donna. Dietro di lui, appena scoperto, la muta zigzaga e galoppa in frenetico inseguimento in fila indiana. 65C, 66C, guardiani di notte, John Henry Menton, Wisdom Healy, V.B. Dillon, il consigliere Nannetti, Alexander Keyes, Larry O'Rourke, Joe Cuff, Mrs. O'Dowd, Pisser Burke, l'innominato, Mrs. Riordan, il cittadino, Gary Owen, come si chiama? Viso strano, quel che somiglia, mi par di conoscerlo, quello con cui Chris Callinan, Sir Charles Cameron, Benjamin Dollar, Lenehan, Bartel D'Arcy, Joe Hines, Murray il Rosso, il redattore Bryden, T. M. Healy, il signor giudice Fitzgibbon, John Howard Parnell, il reverendo Salmon in Iscatola, il professor Joly, Mrs. Breen, Dennis Breen, Theodore Purfoy, Mina Purfoy, l'impiegata della posta di Westland Row, C. P. McCoy, l'amico di Lyons, Oloan lo zoppino, l'uomo della strada. L'altro uomo della strada, il ragazzo del gioco del calcio, il conduttore Camuso, la ricca signora protestante, Davy Byrd, Mrs. Ellen McGuinness, Mrs. Joe Gallagher, George Lidwell, Jimmy Harry sui suoi calli, il sovrintendente Larasi, Padre Cowley, Crofton dell'ufficio tasse, Dan Dawson, il chirurgo dentista Bloom con le pinze, Mrs. Bob Doran, Mrs. Kennefic, Mrs. Wise Nolan, John Wise Nolan, la bella signora sposata contro cui è strofinato il grosso sedere nel tram di Clonskill, il libraio di Dolcezze del Peccato, Miss de Perbac, Sidia Perbac, Madame Gérald Stanislao Moran di Rubeck, il direttore dei magazzini Dreamy, Wetherup, il colonnello Hayes, Bastianski, Citron, Penrose, Aaron Figatner, Moses Herzog, Michael E. Gerarty, l'ispettore Troy, Mrs. Galbraith, la guardia all'angolo di Eccles Street, il vecchio dottor Brady con lo stetoscopio, l'uomo del mistero sulla spiaggia, un cane da caccia, Mrs. Miriam d'Andrade e tutti i suoi amanti. La muta, girati la boccia bergia. È Bloom! È Bloom! Acchiappa Bloom! Chiappa Bloom! Chiappa ladro! Ehi, ehi, fermatelo all'angolo! All'angolo di Beaver Street, sotto l'impalcatura, Bloom si ferma ansante al margine del rumoroso gruppo di litiganti. Un sacco di gente che non sa un'acca di niente. Sente hi-hi, borbotta e lotta attorno al chi, ma cosa, ma dove, strilli tutti insieme. Steven, con gesti ricercati, respirando lentamente e profondamente. Siete miei ospiti, non invitati, in virtù del quinto dei Giorgi e del settimo degli Edoardi. È colpa della storia, favoleggiata dalle madri della memoria. Il soldato Carr, a Sissy Caffrey. Ti ha insultata? Steven, mi sono rivolto a lei col vocativo femminile, probabilmente neutra, ingenitiva. Voci. No! Niente affatto. L'ho visto. La ragazza là. Lui stava dalla Cohen. Che succede? Soldato e borghese. Sissy Caffrey. Ero in compagnia dei soldati e mi ha lasciata per andare a... sapete a far che. E il giovanotto mi è corso dietro. Ma io sono fedele a quello che paga, per quanto sia soltanto una puttanella da 4 soldi. Voci. È fedele a quello che... Steven. Scorge le teste di Kitty e di Lynch. Ave, Sisifo! Accenna a se stesso e agli altri. Poetico, uro poetico. Sissy Caffrey. Sì, e vado con lui. E io andavo con un amico soldato. Il soldato Compton. Gli prudono le orecchie al fetente. Mollagliene una, Harry. Il soldato Carr. Ah, sì. Ti ha insultato mentre io e lui si era andati a pisciare? Lord Tennyson, poeta gentiluomo con un golf dai colori della bandiera inglese e tenuta da cricket, a testa scoperta, la barba fluente. Non fa Lord uopo di un motivo. Il soldato Compton. Mollagliela, Harry. Steven, al soldato Compton. Non so come lei si chiami, ma ha tutte le ragioni. Il dottor Swift dice che un uomo con la corazza ne mette fuori combattimento 10 in camicia. Camicia è una sineddoche, la parte per il tutto. Sissi Caffrey, alla folla. No, io stavo coi soldati. Steven, amabilmente. E perché no? Il baldo soldatino. A mio modo di vedere, ogni donna, ad esempio. Il soldato Carr, col berretto di sghimbescio, avanza verso Steven. Di un po', che ne diresti, signorino, se ti spappolassi la mascella? Steven alza gli occhi al cielo. Come? Molto spiacevole. La nobile arte dell'autopretesa. Personalmente detesto l'azione. Agita la mano. Mi fa un po' male la mano. Enfin, ce sont vos oignons. Ah, sì, Caffrey, qui c'è qualcosa che non va. Che cosa precisamente? Dolly Gray, dal suo balcone, sventola il fazzoletto, facendo il segno dell'eroina di Gerico. Rab, figlio del cuoco, addio! Felice ritorno dalla tua Dolly! Sogna la ragazza che hai lasciato al tuo paese, e anche lei di te sognerà! I soldati stralunano gli occhi acquosi. Bloom, facendosi largo a gomitate tra la folla, tira vigorosamente Steven per la manica. Venga su, professore, il vetturino aspetta. Steven si volta. Eh? Si libera. Perché non dovrei parlare con lui o con qualsiasi altra persona vivente che cammina eretta su questa arancia sferoidale? Allunga un dito. Non ho paura di colui a cui parlo, se posso guardarlo in faccia. Mantenere la verticale. Vacilla indietro di un passo. Bloom, sostenendolo. Mantenga la sua, per cominciare. Steven, con una risata vacua. Mi si è spostato il centro di gravità. Mi sono scordato il trucco. Mettiamoci a sedere da qualche parte e discutiamo. La lotta per la vita è la legge dell'esistenza, ma i filirenisti moderni e Massimo e lo Zar, il re d'Inghilterra, hanno inventato l'arbitrato. Si batte la mano sulla fronte. Ma è proprio qui dentro che devo uccidere il prete e il re.